tagliamo? C'è qualcuno su 10? Su canale 10? C'è qualcuno su canale 10? CQ canale 10? Marco, rispondi Marco. Marco, rispondi. Canta Napoli. Chissà quanti orecchi ci sono in ascolto e nessuno entra però. Una vagogna, sì, Dio. Marco, avanti. Oh, sei muto, sei muto. Ebbene, risciacquati l'ugola, se no non esci dal radio. Chi non esce dal radio? Chi non esce dal radio? Se non parli non esci, no. E se mi sto ascoltando io, come fanno? Fine. E allora, grazie Tina, non lo so io. Ma della portante la voce della rimbusciata, della rimuita. Se è possibile, di salvosa che non mi vuoi essere portato. Mamma mia, quanto sei uscito a mamma. Adesso sei uscito proprio che era proprio una schifezza. E chi è questo, Giulio? Buonasera. Ciao. E chi è, boh, non lo conosco io. Io non conosco nessuno. Per carità. Per carità, è meglio non conoscere mai nessuno. Dammi un rapporto, Giulio, fa la cortesia. Senza conoscere, fra. Senza conoscere, la radio già si capisce bene. Ma non è basso, se la aumenta un po', però se tu la aumenta magari così va meglio. Già si capisce, non c'è bisogno. Se voglio sentirti più forte aumento io il volume, no? No, va bene, la lascio così perché sennò poi va a strappare, capito? Sì, che va bene, già va bene così. Già va bene, poi sono delicato di orecchie io e se tu mi mandi una modulazione troppo forte mi va in calusa il bello. E allora, quello è il problema. Tutti assenti, non è entrato in tutta la sera, ho acceso, mi stanno state le 4, le 4 e un quarto, ma non è entrato un'anima. E infatti, dove me l'ha fatto il giusto, giù? Infatti, su quella idea anch'io sono, come l'ha fatto il tutto, intanto è inutile il tavolo con la radio acceso, se poi non entra nessuno. Poi. E già ci sono nel DPD. Allora anche nel DPD c'era solo Gio Maria, cioè l'ha fatto quattro chiacchiere con Manuele e basta, ma niente di più. Anche loro, anche lì, tutto chiuso. È da un bel culo muccia. Per riattivarsi da 27 bisogna che chiudano tutto di nuovo per fare il lockdown. Certo, io sto parlando, subito sta richiamando. Ho acceso così giusto per vedere chi c'era, niente. Vedete, se sentite sono entrato. E ogni tanto io accendo. Sto facendo una puttana vecchia. Da casa, capito? Già va bene, già ti sento abbastanza bene, non c'è problema. Alla grande, poi la zona dove abiti tu è meravigliosa. È meravigliosa! È come una montante in PMR, giunti, insomma, però non fa vedere nessuno. Ma io ce l'ho qua, il PMR. Cosa è questo qui? E come si chiama? Manuele, che sta chiamando attore. Io già ce l'ho qua, c'ho il portatilino. Anch'io ho un portatilino, una cosa da 30 euro maggio, dimmi che faccio, niente di particolare. Ma già va bene, già mi sento, solo che tempo fa mi si era agganciato il filo della cuffia, era sul comodino e me ne caggio di in terra. E dunque non c'è più il frequenzimetro, è sparito il frequenzimetro. Però funziona sempre. Cos'è il GT3 o il GT5? Il 3. E allora guarda quello che ho io qua. Quello giallo, quello con le fiancate gialle. C'ha la carcassa gialla e nera. Quello anch'io, quello. anch'io quello. Ma va bene, vanno molto molto bene. Adesso costa, mi sembra, 30. Proprio ieri stavo guardando al computer, mi è capitato di vederlo, 36 euro e qualcosa, 37 euro insomma. Ne ho due io di qui. Ho capito. Beh, certo, no, già sono una comodità, dai, già servono. Guarda, vorrei fare lavoro di antenna, roba del genere, ti posso servire sotto, capito? Infatti è per quello. Ma io ne ho un altro anche, però l'altro è differente, molto differente. Questo giallo è di lusso, l'altro è tutta un'altra storia. Questo giallo prende tutto, da 136 mi pare fino a 520 mega. L'altro invece prende solo PMR, boh. Ho visto. E dico tu, sto usando quello, ha un problema comunque al carrier, che se aumenta un pochino esce male di coso, esce tutto quanto con una specie di alternata, un po', insomma, vuole aggiustato, dai. Ma già va bene, quanti anni sono passati già? Sì, magari non è che c'è poi, magari c'è stato il clima da cambiare, e da pulire. Non lo so, probabilmente è il potenziometro del carrier che vuole, ho sostituito, boh, non lo so, io non l'ho mai aperto. Adesso sono passati parecchi anni, minimo sono 3 anni, vero? O fra? Di più di 3 anni, almeno 3 anni e mezzo. No, io ho sempre il, diciamo, il 680, la T250 e l'MC60. Con il PS53 qui c'ho l'altro alimentatore stabilizzato. Quello da 30 ampere, anzi da 40 ampere là. Ok. Sì, beh, sì, 80 è buono sì, 80. Certo, vabbè, 440 qualche difettuccio me l'avevo fatto tempo fa, ma l'avevo fatto riparare e andava bene. Questo lo risale a due anni fa, da più o meno, quasi 2 anni fa. Adesso mi sta presentando questo problema al carrier, ma niente, te lo faccio subito sentire, guarda cosa fa. Hai sentito? Quello è la pulire potenziometro giù. Hai visto cosa fa? Perché non dovevo farlo, però è così. Non lo so. Oppure dalla parte della garretta della Mondezza. Ma scusa, basta aprirlo. La gente non vuole fare il potenziometro. Sì, lo so. No, ma lo faccio, o lo metto da parte oppure lo faccio guardare da chi ha tutta l'attrezzatura, eccetera. Che me l'aveva fatto la prima volta qua a Sassa, che mi aveva fatto veramente un bel lavoro. Adesso purtroppo, anzi lui me l'aveva anche accennato, che guarda che c'è quel carrier che è un pochino difettoso, però gli ho dato, dice, una pulita con lo spray e sembra che va bene. E sarà la stessa cosa adesso, mi? Sicuramente la cosa è già qui a iniziarlo. Siccome è questo primo c'hanno un cartoncino all'interno, capito? Quindi a tutto il girare, si consuma leggermente il cartoncino che c'è all'interno, la graffite che si dice, e fare il lavoro lì, capito? Da pulirlo, come ho detto io. Io lo so che il potenziometro funziona in quel modo, l'ho sempre detto io, addirittura io mi ricordo parlando di radio, però non di radiotrasmittente, parlando di radio normale, una radio, aprirlo, quelli a valvole di una volta, aprirlo il potenziometro, passargli la graffite di una matita e a ripristinarlo così, poi chiuderlo di nuovo, piazzarlo e funzionava alla grande. Perché basta passargli la graffite di una matita, no? Che la passi sopra, si crea con la patina e va bene lo stesso. Sì, va bene. E l'ho costruita con l'antenna giù. Ah, l'hai fatta? Hai fatto bene? E beh, e non la piazzi. io l'ho trovata sui libri di Giulio appoggiata al terrazzo, ma è una bomba. Se te l'ho detto, va bene, altro che se va bene, è una grande, perché io non ce l'avevo sino a 2 mesi fa, 2 mesi e mezzo, massimo 3 mesi, ce l'avevo quella autocostruita. Poi invece mi sono fatto dare la originale e ho fatto lo scambio praticamente e ciccia e mi va bene, dai. Scusa Giulio. Avanti Mario. Se non lo so come ti stavo registrando, c'è un apparecchio acceso e ti sento sull'apparecchio, sul PMR. PMR, sì lo so, un po' calcio stavo ascoltando quel corso, come si chiama? A Manuele stavo ascoltando con Gio Maria, ma adesso credo che abbiano chiuso. No, non hai capito. Ti stanno registrando, stiamo durando qua, ma io ci sono in PMR, hai capito? Stiamo registrando e ci stanno mettendo sul PMR. Lo devo dire. Se la gente è scorretta non ci posso fare niente io. Cosa vuoi che mi tenessi? Saranno problemi loro, non certo miei. Ok, dai, ci sentiamo dopo, scusate. Ma scusate, non sono vedete, sta ascoltando, ma c'è la apparecchio acceso. Allora, se Giulio è sul 10, non arrivate sul... tutto qua. Ok, scusate, ripetiamo giù, ci sentiamo dopo. Ok. Ma gli frega, tanta cosa te ne frega. Se la gente è abituata a fare delle scorrettezze, lasciamoli fare, no? Non è colpa mia. È colpa di che vanno questo video guaccio tutto lì. Avanti Franco. Franco mi stavo dicendo che nessun bullino puoi fare anche a cosa con l'RG58, cioè. Sì, anche con l'RG58, certo, è già un video. Ma per utilizzare un cavo migliore, l'H155 io avevo utilizzato e andava bene, però non, per quello che ci serve a lui non cambia niente, anche se usi l'RG58, non è un problema. Vabbè, il caricatore di paletto lo puoi fare da 213, cioè RG58, quindi caricando con RG58 per il caricatore di paletto, chiaramente puoi usare più watt, ma d'altronde avere il traffico di uso. Non tanto più watt quanto più larghezza di banda probabilmente, ma niente di particolare, andava a Matessi per fare 4 chiacchiere e fare buchi, l'ho usato per 2 anni e mezzo io una cosa così e ho collegato mezzo loppa, per cui andava bene anche com'era quello. Vabbè, io avevo fatto le stesse misure di quella comunque originale, io avevo fatto quello, le misure esatte di quella originale, poi ho controllato con l'osmetro, non con l'analizzatore, ma io non ho analizzatore, ma con l'osmetro, e ha dato dei buoni risultati, l'ho utilizzata per 2 anni e mezzo, una cosa del genere, che ho visto, sono stato fortunato, non lo so, per pensare come voi, so solo che io quando l'ho piazzata mi hanno tutti quanti sentito molto bene, e dunque anche fuori ho parlato tantissime volte, anzi a confronto con gente che ha l'antenna tipo Mantova eccetera, dagli 9 più 30 a lui, ma davano 9 più 30 anche a me, senza nessun problema. Ofra. Ma certo, quello che ho fatto io, guarda, non è, io l'ho provato a YouTube con il terrazzo, praticamente, c'ho 1-1 di stazionario. Ma 1-2 se vai oltre il 68-29, ma quello lì è normale, ma non è che ci sono delle... Poi le misure le ho ascoltate tutte, quindi il calcolo del coso, come si chiama, la resistenza di Torres, il contatore di Torres, più lo slub, la slab che pare che 70 centimetri, qui ci sono 3,45 che partono da sotto, ad esempio il condensatore di potenza, poi da lì devi calcolare un altro metro 25, una palla leggera, una palla di 1 metro, e il sintomo già l'ha fatta tutto, il caso di sottili, quindi ho capito. Comunque il totale di potenza dovrebbe essere 6,90 metri, dai. Sì, ma è così, infatti è così, sì, ma niente di... in particolare, oh, ci sono diverse misure che si possono fare, perché la fattore di impedenza è per poterlo fare più stretta la banda larga o stretta, capito? Dipende, però quelle da accordare, ma io le ho fatte per quelle misure originali, le avevo fatte e quello che ho visto sul computer è andata bene al primo colpo, anzi in quel periodo, io sto parlando sempre di un paio di anni fa, avevo parlato con un amico tramite barattino, così ha fatto, io sto usando l'antenna, ha fatto così e così, e come hai fatto? E come ho fatto? Al computer ho copiato quello che c'era nel computer, ho fatto quello, va bene, ce l'ha fatta anche lui, e anche lui esce alla grande senza nessun problema, per cui certo sarebbe stato bello essere attrezzato, ad esempio come è attrezzato l'amico Luca le fa con cognizione di causa, perché ha la strumentazione eccetera, insomma tutta un'altra storia. Uno è avere solo il rollmetro e devi essere fortunato se ti capita di riuscirti, però se hai l'analizzatore d'antenna, ma costa un sacco di denaro, sono strumenti che costano. E poi devo essere sincero, ci vuole anche una certa esperienza, non è che alla prima ti riesce il colpo, devi essere fortunatissimo. Uno che lo fa da tanti anni giustamente ha molta più esperienza ed è senz'altro più capace, più bravo, non ci sono dubbi, oltre al fatto che hai lo strumento adatto eccetera eccetera. Mi spiego qua? Certo, ma io quella che ho fatto l'ho fatta bene, l'ho costruita bene, che ho messo anche la distruggere tutto quanto, salvata, non messa a mammiti, mi sono fatta salvatura, risulta benissimo, capito? Adesso l'unica cosa che ho la detto mettere sulla camera posta, e io praticamente ci avevo un manico di corso da 4 metri di quello buono, qui c'è un'altra canna da 4 metri, la porto su 8 metri, quindi sono su 90, ci sto benissimo dentro. Ok, perché sai qual è il problema? Quando uno costruisce un'antenna, non è solamente il fatto che non hai stazionarie, o meglio che le stazionarie sono quelle normali, eccetera, ma in un'antenna ci sono tanti parametri da tenere in considerazione, e tutti questi parametri, se non hai l'analizzatore d'antenna, certamente non li potrai mai avere e regolare perfettamente, per cui, ma sicuramente l'analizzatore d'antenna costa intorno ai 300 euro, sono certamente il tipo che vada a spendere 300 euro per cosa poi? Per costruire un'antenna, se ci mancherebbe altro, vuole vedere, sarei proprio impazzito. No, chi invece è interessato a costruirne più di una, più di 10 e più di 20 e 50 anche della sua vita, allora il discorso cambia, perché praticamente diventa una specie di lavoro, dai, se vogliamo considerarlo così, anche se magari non lo è esattamente, però è una specie di lavoro che con lo strumento ti consente di fare le cose per benino, veramente considerando tutti i parametri da tenere in considerazione per un'antenna o tra. Certo che sì, che sia così. Vabbè, hermano, io te l'ho già presentata per fare. Però parlando di definitiva, quando so che faccio più non di solo, a 2,75, a 5,50, e poi non è neanche 2,75 di solo già, sotto 11 metri. Potrebbe essere la misura proprio fattibile, che ne esista tra 1,1, 5 metri e 30. Lo dividi per 2 e risolto. Diciamo che esattamente secondo i miei calcoli, e i calcoli considerato tutto, perché devi considerare la qualità del filo che utilizzi, eccetera eccetera, per l'esattezza vogliono 2,64 per braccio, ogni braccio deve essere lungo 2,64 m, poi chiaramente deve essere installato nella posizione ideale anche, perché se tu me lo installi, per dire, a contatto col terreno e non ha una certa altezza o una certa apertura di degradazione, ad esempio intorno ai 40, ai 90 gradi o ai 120 gradi, dipende da come uno lo installa anche, però diciamo che linea di massima deve essere 2,64 m per braccio, questa è la misura accordata in base al calcolo teorico e fisico dell'antenna stessa, cioè della lunghezza d'onda. Deve essere così, chiaramente uno fa prima 2,75 per braccio e poi accorda, poi taglia fin quando, però la posizione e la misura ideale si ritrova sicuramente a 2,64 m per braccio. Certo, io ne ho fatto uno, il tenuto è 5,50 più o meno, stato. Poi l'ho portato a 5,50, poi l'ho portato a 5,30. Praticamente lo telefono c'ha uno stazionario. Io l'ho provato all'interno di casa, in orizzontale, non in verticale, orizzontale, distanziato da un apparecchio da un metro all'altro, dove ci metti 10 lattini praticamente, e rende benissimo. Sì, beh certo, ma anche lì ci sono tante cose da considerare, anche lì ci sono dei parametri da tenere in considerazione, e ripeto, per fare un buon lavoro veramente a tutti i livelli, sia antenna in verticale o antenna di polo eccetera, ci vuole sempre l'analizzatore d'antenna. Se uno non ce l'ha, fai sì un lavoro così per sentito dire, e oppure perché hai pratica per poterlo fare, però allo stesso tempo sarebbe bene avere lo strumento ideale, quello appunto che ti consente di fare il lavoro alla grande, perché l'analizzatore d'antenna ti dà tutto, ti dà l'impedenza, ti dà la resistenza, ti dà gli ohm, ti dà tutto, ti dà il rosso, ti dà tutto, ti dà addirittura la frequenza dove risuona meglio e dove risuona peggio, insomma ti dà tutto indistintamente, cosa che non può fare con l'ormetro. L'ormetro è solo un'indicazione sommaria per un'antenna già costruita, fatta da chi magari la sa fare, e mette il rosmetro e sei tranquillo ugualmente, però sei veramente alla grande? E questo è l'interrogativo, o fra? Allora, io stavo facendo una prima, tu l'ho fatto un ritorno, io l'ho fatto io, la verità. Ti posso dire che l'ho fatto io con filo argentato da 2,5 m, e l'altro con filo normale, quello con filo argentato rende al doppio di quello con filo normale. Sì, perché dipende sempre dalla qualità del materiale, dipende sempre dalla qualità del materiale, dall'adattamento che si fa anche del cavo di discesa, da tante cose dipende, ripeto. Tutto questo lo puoi vedere con massima certezza sempre con l'analizzatore antenna. Se poi uno vuole fare le cose così per tentativi ed accontentarsi di quello che gli può dare la misura al rosmetro, intanto mi burro rosmetro come si deve, un rosmetro serio, non uno ZG, ci vuole un rosmetro possibilmente professionale, quello è anche importante, se no siamo sempre, facciamo i lavori così all'acqua delle rose e non andare, però ripeto, ognuno si arrangia, sai, l'amatore è così, ma se proprio vuoi fare come si deve, devi avere intanto una certa dimestichezza nel saper fare il lavoro, anche nei collegamenti, nelle saldature, nel modo come si installano poi le antenne, e soprattutto di avere sempre l'analizzatore d'antenna per fare un ottimo lavoro, allora sì. Infatti, poi se uno vuole andare a risparmiare è ovvio, si sa, ad esempio prendiamo il caso della Game Master, la Game Master costa 160 euro, non è che costa 2 lire, no. Costa un sacco di soldi, anzi in certi punti ho letto, sempre stando a quello che ho visto sul computer, anche oltre le 200 euro. Capita, ma ti pare che uno lo spende 200 euro per fare, a preferenza trovi una persona che le fa per hobby, se li fa, paghi quello che ti chiede, risparmi sicuramente moltissimo, che con 160 euro magari ne fai due, non una, magari ne fai due anche nel tempo, e lo puoi fare a chi ha la attrezzatura, allora ha un significato dire vado un'antenna e basta. Però se tu mi dici oh, io ho un'antenna autocostruita, sì, ma è autocostruita, ma com'è? Funziona? Sei fortunato come lo sono stato fortunato io, che al primo impatto è andata benissimo, perché ripeto, gli stessi valori che mi davano prima me li danno adesso che ho l'originale, la Game Master originale, ma ripeto, è stato probabilmente un colpo di fortuna che mantenendo quelle misure che ho letto, però poi era tutto da verificare sempre, perché non avremmo lo strumento per poterlo fare. Ecco come. Certo, quello sì. Io addirittura c'ho la nota da 5 di una campagna, invece. Già prendete con il radiale. No, il radiale c'è il mio, c'è il radiale che può dire, ma solo che sono messo in tutte le boccole in antenna che c'è all'interno, no? Sì, ho capito di cosa stai parlando. Ma se per quello io ho sempre l'avantomaturbo, ce l'ho nuova nuova. Infatti se dovesse capitare l'occasione ve la vendo, intanto cosa me ne vuoi, intanto non la metterò mai più, io sicuramente, mi dispiace, disfarmene mi dispiace, ma mi raggio sempre in mezzo ai bili, e allora no, è quello più che altro, devi stare spostandola sempre, al limite me ne disco, non se ne parla più, dopo tutto è un'antenna, non è la fine del mondo. Ripeto, quando costa cosa quei soldi? Devi pagare da io 145 euro la mantovatura, non è il coltello di branchio, ed è nuova, sai cosa vuol dire nuova? Tanto più io che l'ho tirata giù, l'avevo tutta pulita, poi l'avevo, siccome è a varie elementi, no? E poi l'avevo piazzata, adesso ho fatto due stili intorno ai 2,30 m, 2,40 m, inseriti l'uno nell'altro, fascettati, tutto quanto bene isolato con del nastro isolante come si deve, di quello che quando si attacca non si attacca più, e poi c'è la parte finale, quella dove c'è la molla, quella lì, insomma, da imprepiti di raggio. Se uno la vuole, la nuova ed è pronta, non fa altro che innestare i tre pezzi e l'antenna è già funzionante alla grande. Per cui, ora se anche che capiti qualcuno, però avevano chiesto per la verità, ma il primo era anche Antonio Riserva me l'aveva chiesta, che magari posso fare una telefonata se è ancora interessato, o niente di particolare. Io ho pensato che ne potremmo ricavare un centone. Dopo tutto è nuova, no? Anche il piattello dove si attaccano tutti i radiali lì non è arrugginito, non per niente, insomma è a posto, devo dire che è a posto. Io l'ho tolta solo per un motivo, perché la notte, siccome io ce l'avevo piazzata nel muro che era poi in direzione dal tetto, che era in direzione della camera a letto, nel muro proprio dove ho letto, e quando soffia vento la notte i radiali fischiano e mi dava fastidio a me sentire alle 2, alle 3 di notte questo vento che ti fa la musica, non mi andava, non l'ho tenuta giù e avevo pensato di fare l'antenna canna fresca, per cui e poi l'ho tenuta avanti due anni, ma ormai l'ho tenuta giù da almeno due anni e mezzo o quasi tre, capito? Ma è nuova l'ho tutta bella pulita, lucida, adesso devo dire lucida. Quella che c'è io è bella, quella che per fare il radiale, gli affatti hanno 360, quella che la deve prendere è perfetta. Infatti, questi radiali che io sono lunghi, 1,60 m, sono un tubo da 10 mm, sono di diametro e sono tutti interi, ci sono, pensa che ci sono anche i gommini, tu pensa che c'è ancora, presente ce l'hai, quella specie di funghetto che è poi un materiale plastico che c'è nella punta dell'antenna, anche quello c'è, perché perché io per non seccarlo il sole, quando a ogni ramucello del funghetto gli avevo messo il nastro isolante e così è rimasto, capito? Per cui c'è anche quello, a differenza di tutte le antenne, che ho visto che il funghetto non c'è più. Perché? Perché il sole, la plastica te lo secca e te lo butta giù. Invece io avevo, quando l'ho piazzato, avevo fatto un paio di giri naturalmente a ogni ramo, diciamo così, di questo funghetto. E dunque c'è sempre. No, quello lì serve soprattutto per evitare la corrente elettrostatica, soprattutto per quello. Io so che è così. Poi, ma già mi stai sentendo bene, non è che sto strappando? No, io ti ascolto benissimo, sei una bellissima qua. Se considerare io sento che sono come una pistola era, adesso sto perfettamente bene. Ok, sto usando il mio video 4 come microfono. Avevo fatto lo stazzone lungo, avevo un filo, quello a 8 contatti, no? Avevo comprato lo spinotto, avevo comprato e ho fatto lo stazzone, naturalmente usando solo i 4 fili, no? All'altra parte. E ho inserito lo spinotto, ho femmina con lo spinotto del microfono, cioè, dunque va bene così e funziona bene, anche se ho sempre l'altro microfono, quello praticamente che mi avevi dato tu, ce l'ho sempre, non è, funziona alla grande, ma mi dicono che questo per la mia voce è ancora migliore come modulazione, poi io non lo so, a me chi mi ascolta mi ha detto così, dice che questo per la mia voce va bene così, perché io ho la voce un pochino con i toni alti, per cui questo mi dà un po' di basso, mi dà, non molto, ma un po' di basso me ne dà. Allora, quello è un microfono perché io ce l'ho praticamente, ma avevo adattato il 680, capito? Le medici 4, gli ho fatto altro settore della pronuncia, guarda, va benissimo, però lo preferisco sempre e quindi le mettere in corso le 1060, capito? Beh, come microfono non c'è paragone, non si può fare nemmeno un confronto perché l'MC60 è un microfono da dentro 60 euro, è nuovo, no? Parlando da nuovo, questo è un microfono da 50 euro, 55 euro, parlando sempre da nuovo, però quello che voglio dire io è la timbrica che mi dà questo microfono, piace di più questa timbrica che l'altro, perlomeno per la mia voce, poi chiaramente non è che poi possiamo paragonare l'MC60 con l'MB4, no? E sarebbe da fatti dire una cosa del genere, è solo una questione di voce, di timbro, questo microfono, la mia voce, dicono, poi non lo so così vivo, dicono che è migliore con questo microfono, tutto lì fra. Ecco, serio, io non ti ho sentito con l'MC60, quindi non sono già io. Questo c'è bene, prova a attaccare con la lavagna. Sì, aspetta, mi dammi un minuto, intanto ce l'ho qui dentro il cassetto, ci vuole un attimo ad inserirlo. È bella con la radio, aspetta, prima non era già molto più fatta, no? Perfetta la radio per la porta, va benissimo. Non mi ero accorto che si era spostato di frequenza un montantino, di almeno 5 Hz si era spostato, forse come ho appoggiato non me ne ero accorto, adesso che ho guardato il frequenzimetro mi sono reso conto che era spostato, non era a 75, bensì era a 79 e qualcosina, come ho appoggiato il microfono, perché ce l'ho sul comodino, ce l'ho, non è che ho molto spazio qua, me lo sono messo sul comodino per averlo a portata di mano, magari la notte mi metto le cuffie e ascolto anche in 80 metri, eccetera, eccetera, capito fra? Sì, ma il ritmo è per un'altra cosa, trasmettere e non posso ascoltare nell'altro. Ma quando c'è il ritmo, ti dà la frequenza lo sveglie, per ascoltare. Lo so, c'è anche la manopola poi, che lo metti a 0,0, no? No, ma non lo stavo guardando il frequenzimetro, dunque è per quello, capito? Io non stavo guardando il frequenzimetro, siccome l'ho messo vicino al comodino e ci sta giusto, la radio e il microfono, e come l'ho messo vicino non me ne sono accorto e ho girato il VFO, perché sto andando a sintonia continua in questo momento, non sto andando con quello canalizzato, capito? Ho provato quel microfono a fargli una cosa, a quello che si attacca. Attaccato un pezzo di filo di massa dal microfono alla carcassa della parete. No, non l'ho fatto, non ce n'è bisogno, cosa l'ho fatto a fare? Per non sentire il ronzio dell'alimentatore switching che c'è la ventola, che si sente, questo è più sensibile dell'altro e si sente di più. Se metto l'altro si sente di meno la ventola, ma con questo si sente un po' di più. Ma tu dimmi quello che vuoi, a me non è fatto nulla. Senza, l'alimentatore è stabilizzato. Sì, stabilizzato, certo, quello a trasformatore, anche questo è stabilizzato, no? Come stabilizzazione ne ha abbastanza anche questo, anzi al 100%, però purtroppo va giù di tu, che cosa vuoi che ti dica? Ho questo e basta, ne ho un altro alimentatore, però non mi basta come amperaggio per questa radio, dai, a meno che non lo utilizzo proprio a bassissimo wattaggio, adesso sto usando all'incirca 10 watt, quella cosa così, 9-10 watt, sicché non so cosa dirti, l'altro non credo che ce la faccia a reggere, non lo so, boh, dovrei abbassare ancora, capito? E infatti, ma quello che sto usando adesso è da 30 ampere, no, come alimentatore già funziona bene, solo che questo problema della ventola che è un ichifu veramente, anzi io ho messo anche una resistenza per abbassare i giri della ventola e infatti è diventata un pochino più silenziosa, però è sempre una vagogna, non mi piace, ma chi me lo fa fare? Non c'è più nessuno per questo, non posso andare a spendere 150 euro a comprare un alimentatore adesso di quelli a trasformatore, no? Quelli sono silenziosi, certo, non ce n'è ventola, magari scaldano molto, d'inverno va bene, perché ti cadi di bili se ce l'hai vicino ai piedi, d'estate magari ti fa sudare, però cosa vuoi fare? Ci arrangiamo, lo utilizzo, ce l'ho e basta. Ho capito. Se tu me lo dicevi, è stato cercando un alimentatore, ce n'era uno che l'ho visto io da arrivare al corso del giudizio, c'era un PH53 15, lo sta pagando 40 euro, nuovo. Ho capito, ma quanto tempo fa? Io avevo visto il PS30, avevo visto tanto tempo fa, ma è già passato un anno e poi non ho avuto il coraggio di comprarlo, ho fatto magari non funziona, cosa me ne posso? Mi sembra che voleva 30 euro, una cosa del genere se ricordo bene, quello che c'è lì in via, vicino alla piazzetta diciamo, dai, in quella strada lì. Questo è l'altro così tanto, io non piace più fare tanto. Sì, ma se no, perché tu l'hai comprato, non lo so io di più. Vabbè, è stato fortunato, no? Quello che avevo visto io era PS30, non era PS50, era PS30. Però era quello che andava benissimo anche per questa radio, no? Non c'era problema. Però non era molto messo bene come carcassa, era un po' così graffiata, eccetera, vabbè. Però quello che contava era il funzionamento. Ma poi gli ho detto, ma lo posso provare? Ha detto, no, come fai a provarlo? Non abbiamo modo di farlo. Vengo con lo strumento, lo attacchiamo, no, lo dice, è così e basta, a me non mi interessa. Se lo vendo, lo vendo. Intanto non è mio, è del proprietario. Se lo vendo, lo vendo. Se no, pazienza. Ma io vengo con uno strumento, lo attacchiamo un attimo alla presa e io provo se mi dà la tensione che mi deve dare. Se è così, lo compro subito. No, non mi interessa fare queste cose. Vabbè, allora se lo tenga, leggete, me ne sono andato. È Giulio, no? La tua attenzione è quella. Perché si può dare 13 volte e magari non c'è un terzo, sì. No, è giusto, bisogna provare l'assortimento per anche lui, diciamo, d'accordo. Lo so, ma non è che puoi provare anche quello, vuoi che vai a provarlo? Mi dovrei portare tutta la stazione e provare lì, figurati se quello già le dava fastidio, se io mi portavo il tester per vedere se c'erano i 13 a 8, ma se c'erano già i 13 a 8 era già qualcosa di importante, perché significava che al limite se c'era da fare una riparazione si poteva fare, ma non è che potevo, cosa facevo? Mi portavo la radio per provarlo lì, è l'antenna. L'altro giorno c'era un lineare, un 1735, lo stava dando 30 euro, Vabbè, quelle cose lì già non mi sono mai interessate. Io ho avuto la Volta 747, avevo avuto 60 euro, e in caso ho voluto che dopo che ce l'avevo pochissimo tempo è arrivato un fulmine e me l'ha bruciato. Due baracchini, l'alimentatore legnare, il router del computer e anche l'alimentatore da 25 ampere che avevo l'ora prima. Ma quello forse riesco a ripararlo, perché l'altro giorno l'ho montato e ho visto che controllando con lo strumento c'è un transistor, ce ne sono due, uno vicino all'altro, uno mi dà segnale e l'altro non me ne dà segnale, e quando ho modo di andare lì da Fusaro, se ce l'hanno, è il 2SC2625, è un transistor di alimentazione praticamente, che serve, è probabilmente quello, ma ce l'ho sempre perché l'alimentatore è nuovo quello, e se cambio col transistor lì probabilmente funziona, e se non funziona pazienza, se non è un problema. Esatto, ma io l'alimentatore mi ha preso, è uno degli strumenti, ed è un 10 ampere, poi ne ho un altro da 5 e un altro da 4. Ho capito. Sì, beh certo, no, io quello che ho io, uno ne ho uno da 9 ampere e questo da 30 ampere. Poi sì, ne ho anche piccolini, per piccolini che per un semplice baracchino va benissimo, di quelli tipo 3 ampere, eccetera, ne ho almeno due di quelli. Ma non li considero nemmeno, capito? Io quelli non li considero nemmeno. Tant'è vero, uno ce l'ho ancora in magazzino, non l'ho mai portato qua. Uno mi, poi per stamattina stavo sistemando delle cose sul Massarda e l'ho trovato, uno da 3 ampere, che funziona benissimo, mica, l'ho provato, funziona benissimo, per il baracchino va benissimo, ma no, quelli così da 3 ampere nemmeno li considero io, al massimo lo posso utilizzare se mi gioco con un autoradio, che ne ho due di quelli delle prime macchine che ho avuto, perché ho sempre tolto l'autoradio e ce li ho tutti e due questi autoradio, oltre all'autoradio che ho nella macchina chiaramente, ma quello è della macchina e basta. Quelle sono delle macchine precedenti che avevo prima e le avevo recuperate prima di rottamarle, capito? Esatto, prima si usavano gli stereo, adesso con le nuove macchine ce l'hanno già recuperate. Infatti, no, io macchine ne ho due, io ho la C3, quella ce l'ha 11 anni, di vita, è appena 42.000 km, se tu la vedi è nuova, nuova fiammante, soprattutto quando la lavo, è nuova fiammante, non c'è una vibrazione, non c'è niente, non gli ho fatto mai niente, mai, mai, mai, olio e buco, olio, refrigerante, queste cose così, le solite cose, è appena 42.000 km in 11 anni, e adesso è roba di 6 mesi che la tolgo sia no una volta ogni 10 giorni, ogni 15 giorni, quando magari salgo in città, e l'altra è comprata da poco, un anno fa, l'altra è una, un SUV praticamente, è nuova, comprata, pagata 22.000 euro, ed è la Ford EcoSport, ed è una meraviglia, è una macchina, c'è tutto lì, tutto quello che può essere, inimmaginabile nella macchina, capito? Tutto è elettricizzata, è anche i vetri sono elettrici, i vetri, gli specchietti, tutto quanto. Eh beh, certo, no, è quella che ho io, ripeto, quella che ho tolto, io l'avevo presa, saranno 5 anni fa più o meno, però l'ho usata solamente 2 anni e mezzo, una cosa del genere, non di più, l'ho usata solo così, poi ripeto, l'ho tolta proprio per il motivo che ti ho detto, perché la notte d'inverno, l'estate no, l'estate andava bene, l'estate andava benissimo, no, non c'è niente, però quando soffia vento forte, perlomeno io parlo di vento forte, se poi c'è una brezza non si sente nemmeno, ma se c'è vento forte, come quei giorni che fa vento forte in inverno, e durante la notte nel silenzio io sentivo questo fischio, ma cosa accidenti è questo fischio? E salivo sul tetto e controllavo, ma che ci sia qualcosa, alla fine ho capito, adesso ne tolgo i radiali, ho tolto i radiali, non ha frusciato più, allora a questo punto, visto che allora erano i radiali che fischiavo, allora ne ho tolto tutta l'antenna, e mi sono fatto quello che ti avevo detto, quella auto costruita che me l'ho messa nel terrazzo, cioè 6 metri più in basso di dove c'era la mantobatturbo, infatti adesso l'antenna che io è nella parte bassa e la lascerò sempre lì ormai, perché sta con l'eternato lungo la mano e svito il PL volendo, capito? È a portata di mano, anche prima mi andava bene perché io sul tetto, sui muri perimetrali, visto e considerato che le case che ci sono di fianco hanno la stessa altezza eccetera, ma avevo fatto la passerella per passare sui muri perimetrali senza mettere i piedi sulle tegole, capito? Così non c'era problema per le tegole. L'ho fatto apposta così, o fra. Ho capito. Io volevo provare, Giulio, se tu non c'hai fretta, volevo provare un'altra antenna, perché una pistanella di quelle piste. E prova, sono qua, che problemi ci sono? Prova. Senti un attimo. Prova. Prova, 1, 2, 3. Prova. Prova l'aria. Prova radio, 1, 2, 3, prova. Prova radio, 1, 2, 3, prova. Sì, ti sento bene, fa. No, questa è più bassa. Questa è 6 e mezzo, questa. L'altra era quasi 9, ci va 9 pieno. Questo è 6 e mezzo. Però modulati mi arrivi oltre 7. 6 e mezzo modulati arrivi oltre 7. La radio è buonissima, No, è uguale, la radio sono aumentato un po', ma forse ti sei avvicinato al microfono. Anch'io ho tirato su un pochino il mic gain, forse va bene, mi sono ascoltato in cuffia e dovrebbe andare bene così. Sì che va bene, va benissimo, va benissimo, non c'è problema. A voglia, ripeto, la radio non subisce niente, anzi, devo dire che è ottima. Ok, dai, già sono qua, dai. Questa è l'altra, Giulio. Sì, beh certo, questa va meglio, dai, va meglio, però la radio è ultima, lo stesso, non c'è problema. Anch'io adesso ho appena aumentato il mic gain, probabilmente mi sento più forte anche nella radio, sempre col 60. Ma io Io ti ascolto bene adesso, io posso aumentarla ancora la radio, vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, no, la radio tua è più sopra, non c'è problema, ma voglio dire, siccome io ho un pelino, ma quasi niente, mi... sempre per il BP4, e l'ho aumentata appena, ma adesso domani è quella del BP4, volume di radio. È perfetta, io l'ho qua. Ok. Vabbè, dai, che altri, non posso aumentare potenza non le posso aumentare, se no questa dovrebbe dare sempre intorno ai 100, ma io adesso sto usando 10 watt, 9, 10 watt, non di più, per cui va bene, e poi no, non è il caso di stare a aumentare troppo, non è proprio il caso per niente. Vabbè, certo, anche io sto pilotando 10 watt, 9 watt qua, capito? Non di più. Ok, beh certo, sì, no, ma va bene fra, va bene, adesso quando capita, adesso no, in questo periodo so che l'amico è molto molto impegnato e non voglio disturbarlo, anche perché lui in passato di recente ha avuto anche dei problemi a riguardo di, per cui non è uno molto, e per cui va bene così. Lo lascio respirare, non sono uno di quelli che io mi sto appiccicato al collo come fa certa gente, non ce n'è motivo. Quando respira pieni più polmoni, per così dire, allora lo contatto e glielo dico se è disponibile a farmi questo lavoro, se mi sostituisce il carro o cosa è, insomma, quello che deve fare, io non lo so, anche perché lui ha tutta la strumentazione, ha tutto, insomma, è uno che sa il fatto suo, per cui vedremo più là, se me lo può fare, se non me lo può fare, pazienza, non è un problema, ci mancherebbe altro, sempre più amici di prima. Ma io avrei provato a pulirlo, l'ho detto io, e penso che riesce a risolvere quel problema. Sì, probabilmente sì, perché anche lui, ripeto, la volta scorsa me l'aveva accennato, che l'aveva dato una pulitina con lo spray, andava bene, è andato bene per un po' di tempo, ma io non l'ho mai aperto, non, cosa lo può fare, magari quando lo vedo dentro, non è che mi spavento, però cosa lo può fare? Anche se potessi, dovessi individuare qualcosina, ci vuole sempre un per poter livellare tutto, dai, lui ce l'ha tutta la strumentazione, ma non è una cosa urgente, anzi, assolutamente niente, anche perché Barattini non è proprio di avere fretta. No, non è grande, questo grande lavoro da fare, capito? Lo so, fra, basta togliere il tappo, è una frustatina, una giratina, il potenziometro, una soffiatina, e dovrebbe andare bene, dovrebbe, e se invece magari può essere qualche altra cosa, e cosa la faccio? Lo richiudo e basta, non ho combinato niente, invece lo faccio fare a chi è pratico, a chi lo sa fare, e a chi ha l'azione giusta, capito, fra? Ma dovrebbe essere quello il problema. Cosa che ci si vuole fare, non è che non ci sia il caso nato, la grafite che c'è all'interno, o se che i contatti dovessero risolvere il problema. Sì, sarà quello, però se ti va bene, va bene la forzata, se non ti va bene, cosa ho fatto? Ho fatto una volta per ricavarne un vantaggio. Tu mi dirai, ma non hai perso niente, al limite ricopri e metti le viti e basta. Sì, lo so. Ma siccome non c'è questa urgenza, non, niente di particolare, quando si libera veramente l'amico, quando è proprio disponibile, che può giocarsi, per cui allora le faccio una telefonata e vediamo un po' che cosa mi dice, cui se no lo metto, al limite se ne vado da più, tanto aree di spazio e le gascioni della mondezza. E al limite metto un altro baracchino e ciccia. Anzi, veramente ero intenzionato a comprarmi sempre un superstar e ce l'ho sempre quella intenzione. Anzi, addirittura me lo voleva regalare anche mia figlia. Non l'ho fatto, non ne voglio di queste cose, ne ho tante, cosa me ne faccio? E vabbè, ma uno moderno, non mi interessa proprio niente. Quando si guasta vedrò cosa fare. Certo. Certo che sì, Vabbè, questo sto utilizzando io, ma se no, quello della Magno, no? Va benissimo, va benissimo, ma è sempre di quelli che si scalda molto oppure è normale? Perché una volta dicevano che scaldavano troppo quel tipo di radio lì. Ma io ti posso dire che ce l'ho e non scalda niente, e addirittura sto pilotando praticamente questo da 50 watt, sto uscendo con 10 watt motivati. Lo voglio tirare dalla freddo, capito? Vedete quanti è, questa cosa che avevo un attimino, dalla tenere un euro di stazionari e qua, sono stata proprio niente, con Giulio. E la radio praticamente mi tiri a uno, perché c'è un momento esce ancora più forte. Lo so, Fra, ma non ce n'è bisogno nemmeno di aumentare, perché va più che bene, la radio è più che chiara, è più che pulita, e per cui va benissimo così, è anche abbastanza forte. Perciò, perché deve sfruttare la radio quando non c'è motivo? Se poi si fa un collegamento fuori, vabbè, una piccola sterzata al volume non le farebbe male, perché si è a distanza notevole, ma fra me e te e l'inalaria ora ci possono essere. Gli astrostrada ci sono 5-6 km, là, diciamo, e l'inalaria ce ne saranno sì e no 3, penso che sia così, e dunque va più che bene. Va benissimo, Fra, la grande. Va infatti, la lascio. Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Comunque avevo sempre intenzione di farne anche un'altra antenna, perché non ho tutto il materiale, ce l'ho, ho la canna da pesca da 7 metri e la voglio fare ancora in maniera più perfetta, più precisa possibile a quella che è l'originale, nel senso come lavorazione della bobina, eccetera. Mi si è considerato che io ho ancora l'attrezzatura, mi farò delle cose, delle, come si dice, dei cerchi adatti in bottega, per così dire, bottega, ex bottega, là. Ma all'interno io ho sempre tutta l'attrezzatura e posso farlo. E utilizzo, siccome l'antenna è la canna da pesca è da 7 metri e vorrebbe da 8, come base utilizzo un pezzo di tubo di quello da scarico di lavandino, quello grigio, quello che è robustissimo, e mi va bene, ho già programmato tutto, anzi ho fatto anche già le prove e va alla grande, veramente, perché tempo fa l'avevo fatta di nuovo, poi l'avevo tirata giù, perché l'avevo messa a posticcia proprio per provare e funzionava benissimo alla grande. Però la voglio completare e fare proprio come si deve, con più maestria, insomma, ecco. Ma se va bene, Adriano, è stata lì. Ah, sta da fare bene. Forse ti ha fatto piacere anche per la tua, sì, tu pensa addirittura, anziché fare le saldature, presente ce l'hai Mammut o Fra, avevo utilizzato quelli, voglio vedere che cosa succede. L'ho messa così esternamente sul tubo della canna da pesca, l'avevo tirato sulla canna da pesca, l'avevo fissata al filo esterno con l'altro isolante alla canna da pesca, no? E funzionava che era una meraviglia, andava benissimo senza nessun problema. Addirittura nelle saldature, anziché fare le saldature, avevo utilizzato i Mammut, avevo utilizzato, li ho tagliati, i Mammut li ho separati, diciamo, e ci avevo messo quello come contatti, e devo dire che andava bene ugualmente, però io la voglio fare perfetta, come avevo fatto quella di prima, che non ce l'ho più, ormai quella lì è a carbonia, non è più la salsa di quella, quando avevo cambiato con questa originale che ho adesso, capito? Per cui la voglio fare più professionale, insomma, ecco. Va bene, dai, giù, io ti saluto e vado a fare un po' di carica batteria, se coincide, se ci sei dopo magari facciamo una chiacchierata, altrimenti a domani. Ciao, buonanotte, buon tutto e buon carica, giù. Ok, ciao Fra, grazie per la chiacchieratina e ci sentiamo la prossima volta. Ok, ciao, ciao, buonanotte e buona carica anche a te, ciao. Buonasera Giulio. Buonasera Giulio, buonasera. Prova radio, 1, 2, 3, prova radio in ascolto con cuffia, 1, 2, 3, sembra che va bene, 1, 2, 3, prova, va a posto. sento Giulio Dollaro. Oh, ciao a tu, sto chiudendo, ciao. Giulio, buonasera. Ciao a tu, sto chiudendo, vai, vado a cenare. Già, sono già le 9:15 quasi, ci sentiamo, ciao a tu. Ciao, ci risentiamo.